nel frattempo. E grazie, Gabriz, del tuo intervento. Fra 5 minuti avremo Vision di ritorno e quindi potrà riprendere la sua opera. Nel frattempo passiamo al prossimo contributo che in base alla scaletta è di Gianandrea Giacoma. Gianandrea, se sei pronto, ti passerei subito la parola. Pronto? Si sente? Ok, ma io non avevo preparato niente, nel senso che è un buon inizio, no? Fondamentalmente mi piaceva aggiungere così qualche pezzo iniziale introduttivo a quello che ha già detto David rispetto a questo nostro gruppo che è nato qualche mese fa quando mi venne l'idea di contattare David che stava andando negli Stati Uniti a un'importante conferenza appunto sulla singolarità e gli chiesi se per caso gli andava una sera quando tornava di farci un report. Da lì sono iniziate queste serate molto stimolanti, che siamo riusciti a farne una al mese, che non è male, visto gli impegni di tutti. E quello che caratterizza, che è emerso piano piano, confrontandosi, trovandosi, devo dire, più delle volte abbastanza d'accordo, è quello di avere un taglio, un punto di vista sulla singolarità che fosse tra virgolette europeo, nel senso che l'approccio alla singolarità più diffuso negli Stati Uniti mette al centro soprattutto la nascita di un'intelligenza artificiale molto potente, superiore nettamente all'intelligenza umana, addirittura c'è chi parla dell'intera umanità. Ecco, ragionando tra di noi, ci è sembrato più interessante riflettere sull'interazione uomo-macchina, più che su un'intelligenza artificiale che più chi meno, così. Sembra un po' troppo legato a un discorso di fiction, di fantascientifica e per carità, poi l'intelligenza artificiale ovviamente riveste sempre un ruolo centrale, però quando si parlava appunto di segnali deboli, che poi è un termine che viene utilizzato molto nelle teorie della complessità, quello che si vuole dire è che più che concentrarci su un domani fantascientifico noi vogliamo mostrare e valutare come la singolarità in piccoli segnali è già presente oggi. Ed essendo queste evoluzioni non lineari, appunto come nei sistemi complessi, sappiamo che ci possono essere dei movimenti sotterranei, non di facile interpretazione, che poi esplodono in biforcazioni, cioè in curve immediate e repentine, e per questo appunto diventa importante concentrarsi sul qui e ora e non farsi rapire da visioni troppo a medio-lungo termine che poi non ci fanno notare cose importantissime che ci succedono nel quotidiano e che poi possono essere appunto significative in un discorso generale di singolarità. Questo per dire che singolarità non vuol dire soltanto quello che dice Kurzweil, per quanto a David piace tantissimo, ma diciamo che nel complesso è un'attenzione a questa accelerazione tecnologica. e alla trasformazione che può indurre su quello che noi definiamo generalmente umano, e quindi poi si collegano discorsi transumanisti, ma non vorrei mettere troppa carne al fuoco. Basta.